si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno a tutti cari ascoltatori, buon sabato, ben ritrovati con Si può fare. Questa, lo diciamo subito, è una puntata speciale perché è una puntata registrata, quindi non è possibile per oggi intervenire al numero verde, non chiamate, non vi risponderemo, ma vi racconteremo come sempre ogni weekend tante belle storie. State con noi, che siate in viaggio, che siate in montagna, che siate al mare, oppure e soprattutto se non avete ancora deciso cosa fare oggi e domani nei giorni di Pasqua, noi siamo qua per darvi un suggerimento, perché c'è un luogo simbolo in qualche modo dell'Italia che riparte, e riparte in un modo che vi andiamo a raccontare. Un accompagnamento musicale d'eccezione, niente proprio di meno che Jimi Hendrix con questa Valleys of Neptune, perché siamo agli scavi archeologici di Paestum, dove oggi e domani, pensate, dopo 20 anni, riapre al pubblico il Tempio di Nettuno. Una notizia quasi incredibile. Ne parliamo con il direttore degli scavi archeologici di Paestum, Gabriel Suchtriegel. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Mi corregga la pronuncia se ho sbagliato, perché sa com'è. No, bravissimo. Era giusta. Allora, la notizia è questa. Riapre al pubblico, nel senso che le persone potranno fisicamente rientrare, stare all'interno del Tempio di Nettuno. Chi non l'ha mai visto, basta andare a cercare le foto su internet e capirà la bellezza di questo tempio straordinario. Che però, e questa è la prima domanda che le voglio fare, come mai per 20 anni invece non è stato concesso, è stato interdetto all'interno di questo tempio? Allora, il tempio di Nettuno, bellissimo, anche la canzone di Jimi Hendrix, però in realtà non sappiamo se era di Nettuno, probabilmente di un'altra divinità, quindi ancora ecco, ci sono già alcune questioni da chiarire. Mi corregge subito, giustamente. Però, no, per carità, però perché è stato chiuso? Allora, c'era un grande progetto di restauro negli anni 90, che costò più di 10 miliardi di lire all'epoca, e quindi un intervento molto importante, però dopo purtroppo non c'erano i mezzi, gli strumenti, la gestione non era in grado poi di dare seguito con un piano di fruizione, quindi si decise di chiudere, si erano verificati alcuni atti di vandalismo, e quindi per motivi di conservazione Si è chiuso il tempio. Poi si è deciso di andare oltre la conservazione, ma garantire anche l'utilizzo, la godibilità, la fruizione, come vogliamo dire? La fruizione, molti, forse alcuni si ricordano ancora, mi dicono: ah, ma come era bello all'epoca, si poteva entrare tutta la giornata a fare il picnic. Non sarà più proprio così come era una volta, però sarà possibile accedere, entrare nel tempio, che è una cosa fantastica, fantastica, è un'esperienza veramente unica che si può fare solo qui a Paestum, e poi però ci sarà personale nostro, insomma, che ci sarò anch'io oggi per vedere un po' come si svolge questa cosa, che per noi è anche una sperimentazione, perché vogliamo da maggio in poi aprire in maniera più stabile, più strutturale, più stabile, quindi per capire un po'. Senta, questo tempio è molto importante, che significato ha anche nella storia dell'archeologia, nella storia dei beni culturali in Italia? Il Tempio di Nettuno, cosiddetto, è molto importante perché è il tempio classico meglio conservato della penisola, ci sono pochissimi altri che sono conservati in questa maniera, e dà un'idea della declinazione classica dell'architettura greca, dorica, è stato molto importante anche per la cultura moderna europea. Winckelmann, Piranesi, che disegna i templi di Paestum con le bufale, Goethe che è stato lì, quindi un grande impatto anche su molti architetti. Per questo dico sempre un po' di Paestum c'è ovunque, si va a Londra, Parigi, Moscova, Berlino, tutti questi architetti dell'Ottocento, ci sono stati e hanno studiato, sono stati lì e si sono ispirati di questa e anche tutti i ragazzi a scuola, insomma, quando si studia quel periodo lì, il periodo che è la nascita un po' anche della nostra cultura, e si pensa al tempio greco, si chiudono gli occhi e davanti abbiamo Paestum, praticamente il tempio di Nettuno. Senta, io però le voglio fare un'altra domanda, direttore, che è questa: in questo momento nel quale il nostro imperativo è cercare di reagire ai gravi attentati di Bruxelles e dire non dobbiamo cambiare il nostro stile di vita, voi avete questa inaugurazione, questa apertura importante al pubblico, la riapertura del tempio di Nettuno, che messaggio potete dare, esageriamo, sì, al mondo? Che messaggio arriva da Paestum per quanto riguarda il significato della nostra cultura e andare avanti con le nostre tradizioni? Allora, sicuramente un messaggio di pace. Noi collaboriamo con il comune, con le forze dell'ordine, quindi prendiamo anche delle misure di sicurezza, però è un messaggio di pace perché Paestum è un luogo magico, è anche è come un po' un'isola, no? Di un altro tempo. Vorrei ricordare qua anche lo sparco degli alleati che ha avuto luogo qua nel 43. I templi non sono stati danneggiati in questi combattimenti perché per miracolo quasi sono stati rispettati sia dagli alleati sia dai tedeschi che cercavano di combattere. E quindi è un messaggio di pace e di cultura, di tradizione, di integrità. Senta, lei Gabriel Zuchtriegel è giovane, perché quanti anni ha, si può dire? 34? 34, ancora. Ancora, sì. Già si preoccupa per il compimento del 35esimo, stia tranquillo perché sono veramente pochi, soprattutto per essere direttore di uno scavo archeologico così importante. Lei è anche tedesco, è stato nominato con una infornata di questo bando che il ministro Franceschini ha voluto fare per aprire anche a candidature internazionali il nostro patrimonio dei beni culturali. Cosa è più difficile in Italia da gestire come condizione? Essere così giovane rispetto ai suoi colleghi, immagino se farete delle riunioni ci saranno dei vecchi professori di 70 anni, o il fatto di essere tedesco? Allora, io devo dire che sono rimasto veramente impressionato, perché per esempio il fatto che sono non sono italiano di nascita, anche se ho un grande amore, mi sento molto italianizzato per così dire, non è mai stato un problema, quindi sono molto ma per lei o per i suoi colleghi, non so se allora, ci sarà qualcuno per me, nel senso che non è mai emerso come un punto, sì. Non penso che questa vecchia rivalità Italia-Germania, insomma, un po' ce la portiamo dietro, però in realtà sappiamo che voi tedeschi in particolare forse proprio avete una grande passione per i beni archeologici, per l'Italia da questo punto di vista, e quindi probabilmente da questo punto di vista va tutto bene, professore. Un grande amore, anche perché forse troviamo un po' quello che ci manca al nord, come anche Goethe più di 200 anni fa, e quindi c'è questa, è sempre una scoperta, no? Forse in Italia, chi vive in Italia è abituato a tanta bellezza, tante antichità e tante belle cose che è quasi più difficile accorgersene. Bene, io la ringrazio per essere stato qua a raccontarci la riapertura del Tempio di Nettuno a Paestum. Quindi, cari ascoltatori, avete l'opportunità oggi e domani, poi questa riapertura diventerà probabilmente una misura più stabile anche per il futuro, però approfittatene e andate a Paestum perché è meraviglioso. Grazie. Grazie, vi aspettiamo. A presto, arrivederci. A presto. Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento e intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo mentre il treno va. Ogni domenica alle 11 nella stazione di Radio 24.

che già ha comunque stimolato appunto i lavori, comunque le attività della repressione antifrode. Senti come ha preso il via Maria Letizia, adesso piano piano ci sta facendo, ci sta aprendo nuovi mondi. Maria Letizia Gardoni, è un piacere ascoltarti, grazie per essere grazie stata con noi. Si può fare. Cronache da un paese migliore. See my silhouette in the moonlight, such an attraction. Keep telling me how my outfit's so nice. Little did he know, my man gon' take it off tonight. That's when the X comes, that's when you put it on. Allora, Beyoncé con Claudia Schiattone che balla in regia. Peter Bescavel no, perché deve stare fermo ai pulsanti della regia, ma insomma ballerebbe anche lui, balleremo anche noi. Vi ricordo che tutte le nostre musiche, le scelte musicali di Si Può Fare le ritrovate sono nella nostra pagina, la pagina di Si Può Fare dentro il sito di Radio 24, ci sono le playlist di tutte le puntate. Allora, non chiamateci bacchettoni, però insomma noi ci siamo chiesti, ma questo non si può fare interrogativo, ma si può a scuola andare in giro con pance, ombelichi, cosce, spalle di fuori? Si può fare questa cosa qua oppure è un po' troppo? Distrazioni, tentazioni. Mi guardi, non lo so, perché la prendevo da un'altra parte, prendevo si può che un liceo decida come si devono vestire le proprie studentesse, nel senso, in un liceo in cui non c'è la divisa, ovviamente. Allora noi lo chiediamo alla preside del liceo classico Tito Livio di Milano, Amanda Ferrario, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Autrice di una circolare che chiede che cosa? Cosa ha scritto lei in questa circolare che è uscita sui giornali proprio perché era un po' un appello ai ragazzi affinché mantenessero un certo decoro, mettiamola così. Allora, fondamentalmente era un appello ai genitori e ai docenti, nel senso che il decoro si spera sia in un liceo, ma anche insomma nella società civile, parte del patrimonio di tutti. Mm-hmm. E proprio per questo esistono luoghi, momenti, stili, insomma, la canottiera va bene se si va in palestra a far ginnastica, forse va bene o meno durante il compito di latino, ma questo anche a un colloquio di lavoro, bisogna avere comunque un minimo di decoro. Il jean strappato, ok, è consuetudine. Forse la maglia a rete con la biancheria intima vista, magari è meglio di no. Ecco, mi faccia un piccolo campionario di esempi. Qual è la cosa più indecorosa, che è lo scollacciamento o la vita bassa peggiore che circola dentro la sua scuola? Ma secondo me non è tanto una questione di cosa è peggiore e cosa è migliore, è proprio una questione di rispetto e senso del luogo. Ci sono luoghi e momenti, in spiaggia va bene un po' tutto. Sì, però lei ha fatto un paio di esempi, la maglia triforata in cui oppure la gonna cortissima in cui si vede l'intimo, questo è un caso estremo. È un caso estremo, ma insomma mica tanto. Io vi invito a fare un giro nelle scuole di Milano, noi siamo un liceo del centro di Milano, ma anche in altri ambiti. Sì. In altri ambienti. No, ma infatti un caso estremo le chiedevo non nel senso che ce ne sono pochi, ma nel senso che è un caso che non si può tollerare però, dal suo punto di vista. Mi metto dall'altra parte, nel senso che è un caso estremo, però giusto, lei diceva la canottiera va bene solo in palestra. Un po' va anche detto forse agli stilisti, perché la canottiera è stata strasdoganata e vediamo canottiere, non dico alla consegna degli Oscar, ma quasi. Quindi va un po' capito qual è il decoro e qual è il contegno, nel senso che se da un lato ci mostrano che in canottiera si può andare, dall'altro uno giustamente dice io al liceo non vi voglio con le canotte traforate e la biancheria intima a vista. Guardi, non è questione soltanto di liceo, lei andrebbe al ristorante in costume da bagno, insomma è anche questione di rispetto nei confronti delle altre persone che frequentano luoghi. Sono pienamente d'accordo. Ecco, quindi non è tanto la moda, secondo me la moda è anche una questione poi personale. Il pantaloncino corto sotto il quale si vedono le mutande in pieno inverno con lo stivale, la gamba nuda, molto probabilmente io direi che è esagerato per una quindicenne, ma anche essere una che va alla cerimonia degli Oscar. No, sono d'accordo con quello che dice. Un po', se devo dire, mi sembra che nella circolare è più una questione appunto di decor. Lei giustamente sì. dice, nel momento che uno va a una prima comunione, a una festa, non si veste in quel modo. Però mi sembra che sia più sulla... Cioè mi chiedo se è una questione di forma o di moralità. Perché se fosse secondo di forma, allora... Prego. No, scusi, è una questione che secondo me riguarda la nostra comunità in generale, cioè proprio la società intesa come comunità educante. Esistono dei valori, dei luoghi e dei tempi che si sono un po' persi, ma non li hanno persi i nostri ragazzi che hanno 15 anni, li hanno persi i loro genitori che ne hanno 40-50, per cui tutto comunque è lecito e va comunque tutto quanto bene, perché in questo momento si usa così o perché diventa un'identità condivisa. Non va bene così, perché noi non siamo quello che si vede, siamo molto di più di quello che si vede, quindi non siamo una canottiera piuttosto che un paio di pantaloncini ben portati, siamo ben altro. Insomma. Senta, ma io vorrei capire, ma c'è in fondo, oltre alla questione del decoro e del comportarsi, vestirsi nel modo adatto, nel posto adatto, anche una questione, un po' come diceva Carlo, morale, io aggiungo un problema sessuale, cioè c'è troppo ammiccamento, troppa provocazione tra ragazzi che non hanno ancora 18 anni, cioè una ragazza in minigonna a 15 anni, è un problema? No, io credo di no, perché non ne hanno neanche la consapevolezza, cioè per loro non ha nessun significato di trasgressione, come poteva essere magari 20 anni fa o 30 anni fa. È proprio solo una questione di moda, per cui non si rendono conto che in questo modo, in qualche modo, si buttano via, ma buttano via un'immagine di sé che è altra. Mi dice qual è stata la reazione dei genitori, degli insegnanti, dei ragazzi a questa sua circolare? Gli insegnanti me lo chiedevano dall'inizio dell'anno, come lo chiedono un po' tutti gli insegnanti in un po' tutte le scuole, perché veramente in alcuni momenti si esagera veramente tanto. Gli studenti, vabbè, sono un pochino turbati dal fatto che si voglia mettere un freno a quella che è la loro libertà, chiamiamola così. I genitori invece assolutamente, con grande sorpresa, molto consapevoli e molto d'accordo, per cui qualcuno mi ha addirittura detto, ma io insomma dicevo a mia figlia di non andare in calzoncini e lei mi diceva che problemi non ce n'erano. Posso dire che questo genere di problemi iniziano già a 4 anni e mezzo, io e mia figlia Viola che ha 4 anni e mezzo e già si comincia a battagliare su gonne, smalti, tutù e cose di questo genere. Non voglio pensare cosa succederà. Io guardi, condivido molto il fatto che bisogna vestirsi in un certo modo per certe occasioni, le facevo la domanda sul fatto se fosse un pochino più una questione di moralità e non di forma, perché leggevo che lei ha detto i maschi a volte sono un po' trasandati, ma questo è un altro discorso, e allora mi chiedevo, in fondo anche la t-shirt con le macchie di sugo non è un bel modo per vestirsi per andare a una festa, e invece quella va bene magari a scuola, e uno dice però la canottiera no, era per questo. Solo che non può essere una domanda alla preside, perché abbiamo esaurito il tempo, quindi grazie. Chiedo scusa. Amanda Ferrario, per essere stata con noi. Cos'è l'Europa per te quando pensi a lavoro, studio e mobilità? Oggi le nuove generazioni vivono in una dimensione europea. Tuttavia non basta, c'è tanto da migliorare e qui chiediamo la tua opinione. A te che vedi l'Europa come un'uscita di emergenza dall'Italia. Hai meno di 35 anni? Grazie a Radio 24 e all'Ufficio Informazione del Parlamento Europeo a Milano puoi aggiudicarti un viaggio studio all'Europarlamento di Strasburgo. Fino al 14 maggio ascolta Radio 24, scopri il tema della puntata e inviaci la tua proposta su come rendere a misura di giovani questa Europa. Sono Sergio Nava, vi aspetto ogni sabato alle 13.30 con Giovani Talenti. Info su radio24.it. Digital Radio Flash. Ciao, sono Max. Ma è vero che la Digital Radio si sente perfettamente anche mentre guida in autostrada? Sì, perché è un sistema nuovo che migliora l'esperienza d'ascolto con una qualità dell'audio estremamente avanzata. E puoi ascoltare la tua radio in Digital Radio già sul 70% della rete autostradale. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da... Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digital radio. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Carissimo presidente Crocetta, come lei ben sa, la provincia d'Agrigento, dove vivo anch'io, è la provincia più degradata d'Italia. Io di rispetto non le voglio mancare, preside, però una cosa mi permetta, gliela voglio proprio dire. Secondo me a ste trivelle una soluzione c'è. Non trivellare, che vedi che poi Gesù ti punisce. C'è rimasto solo il mare, e lasciatecelo stare. Preside, chi su è l'umale che fare? Di domare quando è bello, spira d'onde si endimente. Sì, curioso, mentre scavi stupertoso, ma scordati l'unica cosa, che un petrolio non c'è sta. Tozzi, buongiorno. Buongiorno, eccolo qua. Ecco. Buongiorno. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il decreto sulle norme in materia ambientale che indice il referendum popolare sulle trivelle, sì, per il 17 aprile. Quindi adesso abbiamo una data, non è la data che chiedevano i referendari, perché si chiedeva un accorpamento con le elezioni amministrative per favorire il passaggio, no? Il superamento del quorum. In qualche sì, modo. Ma questa è sempre la solita storia. Quando ci sono questi referendum considerati fastidiosi o minori, anche quando c'è la possibilità, perché in questo caso c'era la possibilità, non ci si perita di spendere altri 300 milioni di euro pur di renderli falliti. Perché costa di più votare in due date diverse, vero? Beh, questo certo, va detto. La cifra calcolata è questa, circa 300 milioni di euro in più. Lo trovo uno spreco insopportabile in questo periodo, ma soprattutto lo trovo una forma, se non di contrarietà all'espressione popolare, che questo sarebbe troppo, insomma, effettivamente, di sciatteria istituzionale, perché non c'è motivo di considerare questi referendum chiesti dai cittadini, approvati dalla Corte Costituzionale, come degli elementi minori. Perché invece, qual è la motivazione con la quale Alfano non ha fatto questo accorpamento? C'è una motivazione ufficiale? Non ho la benché minima idea, perché quello che ho visto nei documenti ufficiali non c'è traccia di una particolare pressione istituzionale per poter muoversi in questa maniera. In teoria, esiste un decreto che prevede, non esiste la possibilità di abbinare elezioni con referendum, anche se sappiamo tutti che è stato fatto non molto tempo fa per una questione, ed era stata fatta una legge apposta per accoppiare le due questioni, ovvero elezioni nazionali e referendum. Questa è una questione che può essere ricondotta ad altri referendum che hanno avuto questa storia. Ricorderete per tutti, in materia ambientale, quello contro la caccia. Cerchiamo di capire però per che cosa si vota, perché la frase che si va ad abolire, come sempre si tratta di un referendum abrogativo, è questa: per la durata di vita utile del giacimento nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. L'ho voluta leggere solo perché era corta, era facile, altre volte sono frasi lunghissime ed è inutile leggere. Però nella sostanza, Tozzi, per cosa si voterà? Allora, che cos'è un giacimento di petrolio? È una trappola sotterranea in cui gli idrocarburi restano imprigionati dopo aver migrato dal posto in cui si sono formati, ecco, per dirla in breve, dalla roccia madre. Normalmente in Italia queste trappole erano molto poco conosciute o molto profonde per poter essere sfruttate. Per questa ragione, tanti anni fa, decenni fa, i governi italiani diedero la possibilità alle compagnie petrolifere di venire a perforare da noi quando volevano, abbassando molto le royalties, così che invogliavano le compagnie a venire a perforare da noi, dove però il petrolio era difficile da trovare. E questa è stata la situazione per tanti anni. I primi pozzi di petrolio italiano sono degli anni 30, quelli importanti, in Basilicata e poi in Pianura Padana. Dopodiché, siccome la prospezione petrolifera è diventata più importante, si va più in profondità, l'Italia è diventata interessante da un punto di vista prospettivo, e tant'è che in Italia si è trovato il più grande giacimento che ci sia sul continente, dell'intero continente europeo, i giacimenti lucani appunto. A questo punto almeno la prima cosa da fare sarebbe stata di rendere più alte quelle royalties. In certi paesi chi perfora lascia addirittura i tre quarti dei denari al paese in cui perfora, da noi è il 10%. Francamente è un po' ridicolo, e questa è già una questione di fondo. Quanto dura un giacimento? Fino a che tu lo sfrutti, e che cosa sono le condizioni di sicurezza al contorno? Sono quelle per cui tu riesci a perforare senza avere impatti, ma in realtà questo non è possibile, nel senso che non c'è tanto il problema dell'eruzione del pozzo, questo può sempre accadere, ma è molto raro, mi pare il 2% rispetto ai giacimenti del mondo. Ma l'impatto paesaggistico in certe zone è così forte da non poterlo trascurare. Prendiamo le isole Tremiti, dove questo è stato vietato esplicitamente. Le Tremiti e Ombrina Mare sono i due posti dove è esplicitamente invece vietata la concessione. Perché la concessione viene data dallo Stato in quanto le materie del sottosuolo, sono compresa l'acqua, sono tutte di proprietà dello Stato, anche se le regioni le possono avere in concessione. Dunque è una materia nazionale questa, ecco perché si cerca. Poi in casi particolari la si può diciamo così, rendere più difficile o impedire, ma qui si tratta di una questione più generale, io la ripeto, in questi ultimi anni oltre il 30% dell'energia elettrica italiana è ormai prodotto per via rinnovabile, dunque si può fare, perché un tempo si pensava di non poterlo fare. Questo petrolio che costa poi così poco ormai al barile, dunque rende più difficile abbandonarlo, ma forse questo non è del tutto vero, ma insomma si pensava un tempo che si sarebbe abbandonato perché sarebbe arrivato a costare troppo, adesso invece non è più così. Ecco, io trovo che non si tratta di rimanere col cenno in mano, ma di mettersi in un altro modello di sviluppo. Purtroppo noi abbiamo un settore produttivo, quello dell'industria, il Ministero dell'Industria, cioè, che è rimasto legato a metodi vecchi, fatemelo dire, e sulle energie rinnovabili non danno l'incentivazione che ci dovrebbe essere o la riducono, e ripropongono gli inceneritori. E si va a scavare di idrocarburi, ma insomma questa è una roba che non fa più nessun paese. Infatti è molto strano tutto questo. Io mi scusi, le parlo da ignorante, però io ho vissuto tutta la vita da piccolino pensando che il petrolio ce l'avessero gli arabi. Poi improvvisamente il petrolio è stato descritto come il demonio e non bisognava più usarlo, e in quel momento l'abbiamo trovato anche noi, cioè gli italiani, e non ho più capito niente. Dico, ma com'è possibile? Perché appunto, come dicevo prima, nel corso degli anni il target, cioè l'obiettivo, il giacimento, che una volta non veniva perseguito se troppo profondo, perché costava troppo arrivare oltre i 5.000 metri di profondità, certo, si rimaneva sui 3.000, è diventato invece impossibile per le tecnologie. E allora anche in Italia, dove quei giacimenti c'erano, ma erano profondi, dunque sono diventati prospettivi. Giusto. Io ho partecipato personalmente alla ricerca di petrolio in Basilicata, perché quando da giovanotto mi ero appena laureato, ebbi un contratto proprio per la prospezione, cioè la parte più generale. Mi ricordo benissimo il momento in cui in uno di questi pozzi la carota, come si chiama il campione di roccia che viene su, era tutta sporca di nero. Tutti attorno pensavano che era una cosa che si era diventati positiva. Miliardari. Sì. E invece la regione Lucania non è diventata miliardaria manco per niente, perché in realtà non è che gli sono diminuite le tasse per l'energia o la bolletta elettrica è diventata ridotta. Gli ha cambiato una regione a vocazione agricolo, pastorale, turistica, gli ha cambiato una parte dello sviluppo in maniera insensata, a mio modo di vedere. Addirittura nacque, mi ricordo in quei tempi, appena fu data la notizia, c'era un bar che si chiamava Petrodollaro. Lucania. Cioè, era subito sbloccato. Appunto, dico, non lo so. E poi, dopodiché, appunto, ha portato tutta la questione dell'oleodotto, dei 42 pozzi, cioè, insomma, è stato un impatto significativo. Vabbè, ormai quello c'è, non è che si dice di chiudere quello. Grazie tanto. Mille. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Presidente Crocetta, come lei ben sa, la provincia d'Agrigento, dove vivo anch'io, è la provincia più degradata d'Italia. Io di rispetto non le voglio mancare, Presidente, però una cosa mi permetta. Gliela voglio proprio dire, secondo me a ste trivelle una soluzione c'è. Non trivellare, che vedi che poi Gesù ti punisce. C'è rimasto solo il mare, e lasciatecelo stare. Preside, chi su è l'uma lì che fare, di tu mare quanto è bello, spira tanto siente. Curioso mentre scavi stupido su ma scordati le cose, au petrolio non c'è sta. Crocetta e la trivella. Allora, il referendum sulle trivelle, il nostro si può fare è questo, cari ascoltatori, tenervi informati di tutti i punti di vista che ci sono, dei rischi che ci sono, che non ci sono. Qual è il quesito referendario, per esempio, per il quale si vota? Lo voglio ricordare. È questo: la durata delle concessioni che il governo appunto concede alle compagnie petrolifere per estrarre il petrolio. Una durata che aveva un inizio e una fine. Il governo ha, come dire, con una deregulation ha esteso la durata della concessione a l'esistenza del petrolio in quel giacimento. Finché c'è petrolio si può trivellare. I referendari avevano proposto 6 quesiti, ne è rimasto in piedi soltanto uno, tutti contro la possibilità di trivellare, e quello che è rimasto in piedi è quello che se la prende appunto con la durata e dice la concessione deve iniziare e finire, poi si ritratta, eventualmente si ricontratta, oppure se si decide di non trivellare più eventualmente si smette di trivellare. Che... quindi in realtà non è che con il referendum noi stiamo decidendo bravo, basta trivelle, bravo. È così, stiamo decidendo di la concessione deve avere una durata decisa, dopodiché si deciderà. La vera domanda è dopo però così si vuole decidere sempre di dire di no, oppure si può continuare a dire sì? Questo è il quesito. Abbiamo sentito Mario Tozzi del comitato No Triv, quindi per votare sì al referendum. Questa volta sentiamo una voce opposta, che è quella di Emilio Miceli, segretario nazionale dei chimici della CGIL. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Buongiorno. Che ha messo, diciamo, il punto di vista della CGIL, una preoccupazione sull'occupazione, sul lavoro, perché in Italia, bisogna dirlo, l'estrazione di petrolio si fa da tanti anni, c'è una fetta di occupazione di persone che lavorano su questa cosa e dal vostro punto di vista giustamente voi dite attenzione, perché se chiudiamo i pozzi, chiudiamo tutto, perdiamo anche una possibilità di crescita economica. Non so se ho sintetizzato, ho detto bene, ho detto male. Lascio a lei, Miceli, di esprimere il punto di vista. No, ha detto bene. Stiamo parlando di distretti petroliferi importanti, dove nel tempo si concentrano investimenti, dove si crea una qualità di impresa e una qualità della tecnologia altissima, dove c'è gente qualificatissima e formata, ci sono frotte di ingegneri che lavorano attorno a questo. Quante sono le persone, Miceli, le posso chiedere questo dato? Avete un dato su quante persone in Italia lavorano nei pozzi petroliferi? Guardi, io non sono in condizione di darle un dato preciso, le posso dire che nel solo distretto di Ravenna credo che girino attorno a 6.000 persone, ma stiamo parlando di lavoro qualificato, stiamo parlando quindi non della piattaforma, quella che si vede nelle immagini, ma di tutto il lavoro che c'è alle spalle. In più parliamo di una cosa che sappiamo fare, per la quale siamo tra i primi al mondo, forse i primi. L'Italia, che è un paese che non eccelle quasi nulla tranne che sul Made in Italy, come è noto, è un paese che questo mestiere nel tempo lo ha. Sì, perché potrà sembrare, Miceli, voglio solo dire una cosa, poi la faccio proseguire, potrà sembrare strano magari, no? Uno non se lo aspetta, l'Italia è tra i primi produttori di gas, di petrolio in Europa, il petrolio si estrae in Italia da tanti anni, dagli anni 50, in effetti di disastri ambientali ce ne sono stati forse un paio non grandissime proporzioni, infatti credo che nessuno quasi se le ricordi, e quindi lei dice abbiamo anche sviluppato una capacità che esportiamo nel mondo, che sarebbe un peccato perdere, che è straordinaria. In più le dico, guardi, non voglio entrare nemmeno nella discussione sull'impatto. Penso una cosa, penso che il paese complessivamente inteso è giusto che si interroghi, che possa provare ad aggiustare, a dare risposte. Certo. Un quesito referendario è soltanto una virgola che salta, un'altra parolina che viene omessa qui e lì, e non rende giustizia di tutto quello che c'è alle spalle di quella parolina. Questa è la cosa che un po' mi ha poi alla fine convinto che era meglio scrivere qualcosa per cercare di trasmettere un punto di vista non opposto, ma un punto di vista più problematico sulla questione. Io non sono né triv né no triv, io sono uno che guardando, osservando sul territorio e poi insomma facendo anche sindacalista anche in questo settore, dico un paese che decide di fare a meno di una delle cose più importanti che ha e tecnologicamente più avanzate che ha, non è che schiera il paese contro il territorio di Ravenna. Senta però, Miceli, il paese contro Ravenna, credo che sia un'ingiustizia. Stando però al quesito proprio in senso stretto, come dicevamo prima, in fondo anche a non voler essere contro la possibilità che l'Italia continui ad estrarre petrolio, per esempio io personalmente non credo che si debba essere contro tout court l'estrazione del petrolio in Italia, però sulla questione della durata delle concessioni, perché bisognerebbe, come ha voluto fare il governo, queste concessioni estenderle all'infinito anziché avere la possibilità a fine concessione di ricontrattare le royalties, guadagnarci qualche cosa di più con le compagnie petrolifere? Ma io credo che adesso non sta a me interpretare le norme che sono state messe nella legge di stabilità, insomma, ha deciso il governo in quel modo. Io credo che ci sia una ragione che reputo assolutamente sensata, cioè il fatto che siccome questi sono settori nei quali c'è bisogno di elevati investimenti e una redditività differita nel tempo per il ritorno degli investimenti, quella norma in qualche modo consente di poter rendere questi investimenti proficui nel tempo. Immagino che questo sia il motivo. Cioè lei dice senza quella norma non verrebbero a investire i soldi? Credo che sia così, credo che sia assolutamente così. Del resto avete già visto in queste settimane alcune compagnie hanno deciso di ritirare i propri investimenti in Italia. Guardi che parliamo di miliardi e miliardi di euro. Senta, ma nel conto economico questo paese non si trova. E se fosse invece un'altra la questione per cui che è un'altra obiezione in questo momento a fare nuovi investimenti in trivellazioni, la questione del fatto che il prezzo del petrolio è in caduta libera, cioè estrarre petrolio serve ovviamente perché è un combustibile e ci mandiamo avanti il paese, però dal punto di vista del mercato le compagnie in questo momento, a parte la benzina in Italia, esatto, che è sempre altissima, però il prezzo del petrolio è sceso molto. Guardi, questo è vero che c'è stato un deprezzamento del costo al barile, evidentemente questo può anche comportare nelle imprese una revisione dei propri piani di investimento, lo sta facendo e sta succedendo in tutto il mondo, quindi questo è un problema vero, ma esula dal referendum, una questione riguarda il mercato. Altra questione è sapere se ci si trova di fronte a un paese, come mi sono permesso di dire qualche giorno fa, a legislazione emotiva. Chi deve investire tanti soldi per poter impiantare una piattaforma petrolifera, che immagina di dover usare questi soldi per migliorare tecnologicamente, deve sapere che il paese a cui si rivolge è un paese il quale non cambia idea ogni 5 minuti. Credo che l'incertezza che determina questa questione rischia di essere letale per l'Italia. Poi certo, il prezzo del barile è calato, ma come lei sa sta cominciando a risalire. Beh sì, si può immaginare che questo prezzo torni a risalire. No, la cosa che ci chiedevamo è se veramente, come ci stiamo dicendo, il referendum è semplicemente sul fatto di dire facciamo che le concessioni abbiano una durata e dopo quella durata si ridiscutono. Rimanendo su questo punto, mi sembra che anche dal punto di vista della CGIL dovrebbe dire vabbè, perché no? Nel senso che ogni volta si ridiscutono, di modo che capiamo, e anche i lavoratori forse sono più tutelati. Faccio un esempio: se una compagnia non rispetta i lavoratori qui in Italia, a quel punto, quando è finita la sua concessione, uno dice aspetta un attimo, ci mettiamo al tavolo anche con i sindacati e diciamo se volete proseguire con questa concessione dovete fare questo e quest'altro. Quindi mi sembrava sano da questo punto di vista. Sbaglio? Guardi, no, non so se lei sbaglia, che abbia ragione. Io penso sempre, immagino che non stiamo parlando, diciamo, di una normale attività nella quale c'è un ricambio, passa, si chiude un'azienda, passa un altro, si fa una clausola sociale e si fanno passare i lavoratori da un posto all'altro. Qui stiamo parlando di settori nei quali le imprese che si impiantano perché hanno un'infrastruttura importante. Certo. Però facendoci anche forza, che siamo i più bravi. C'è una, come posso dire, in quel mestiere lì, siccome il vero valore aggiunto riguarda l'innovazione tecnologica, la specializzazione delle imprese e la alta qualità delle persone, Noi rischiamo, se perdiamo qualcuna di queste cose, poi pian piano andiamo dismettendo, perché le persone andranno in altri posti nel mondo, non è che non ci siano posti dove non si trivelli, questa è l'altra cosa che mi permetto di dire. Va bene. Non facciamo il disarmo unilaterale. Era questo il punto di vista del chimici della CGIL. Grazie Emilio Miceli, grazie per essere stato con noi. Radio 24, Sky 1 e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Come ti mette di buon umore, aggiungi un posto a tavola. Sto ballando sulla seggiola. È proprio questo il messaggio che cerchiamo di veicolare. Cioè, balla sulla seggiola? No, sì, aggiungi un posto a tavola. Aggiungi un posto a tavola, c'è posto per tutti. E si può anche stare attenti a risparmiare, a non sprecare il cibo e, diciamo, a creare dal momento in cui si mangia nella scuola una occasione di crescita, di formativa, proprio per conoscere anche la questione dell'alimentazione, come ogni bambino si rapporta al cibo. Alla scuola, all'Istituto Rio Crosio di Asti, da un po' di anni stanno sperimentando proprio questo. Al momento in cui arriva la porzione, si chiede ai bambini se vogliono tutta la porzione, se ne vogliono mezza, per esempio, perché magari quella al cibo non gli piace tanto o non hanno molta fame, e si evita così di sprecare. La verdura viene fornita in porzioni in base al desiderio del bambino. Ne parliamo con il maestro Giampiero Monaca. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ben trovati. Che insomma è un po' l'animatore, insieme agli altri maestri e ai genitori anche, immagino, di questa iniziativa che va avanti da quanti anni ci state lavorando a questo progetto, come delle formichine proprio? Proprio come delle formichine, sì, una briciola alla volta. Ma dunque, io più o meno è da ormai 10 anni che sono impegnato in questa attività, esattamente dal primo giorno che ho preso servizio in quella scuola. La mia provenienza era di tutt'altra esperienza, ero un capo scout, sono stato chiamato dopo aver fatto il... Cioè avevi nel DNA l'anima della guida, di quello che in qualche modo deve... Del risparmio, del cucinare tutto quello che trovi perché hai fame, del mangiare quello che hai cucinato perché hai ancora più appetito. E giusto, perché gli scout vanno in giro con le scatolette, montagna, devono stare attenti. Quando il cibo te lo porti sulle spalle abbondi molto meno. Molto meno. Vero. E voi avete fatto anche dei conti, no? Su quanto fatto anche molti conti, si può risparmiare in questo modo qua. Esatto, allora noi l'idea base è quella del mangiare di tutto e di tutto un po', siamo quello che mangiamo, per cui non si può, non si può costruire una casetta di Lego soltanto con i pezzi bianchi da un solo posto, mm-hmm, anche se sono bellissimi. Esatto, sono i più belli, peraltro, sono introvabili. Ma hai bisogno anche di quelli da 4, da quelli da 6, quelli gialli, quelli verdi, per cui va bene la pizza, ti piace moltissimo la pasta al ragù, ma anche la verdura e quel tipo di verdura e anche quell'altro, così come le polpettine. Per cui se è a menù, noi diamo come regola questo: se è a menù vuol dire che qualcuno serio e competente ha pensato che questo sia ci fa bene, certo, quindi bisogna mangiarlo. in qualche quantità la devi mangiare. È importante che tutto entri nell'organismo. Quindi il vostro concetto si basa proprio sulla qualità, cioè scusami, sulla quantità, è proprio il contrario. Di tutto, senso, di tutto un po'. Era la regola di mia nonna. La qualità è più che soddisfacente. Sentivo prima i discorsi, buono, non buono, eccetera. Noi abbiamo la fortuna di avere comunque una mensa, non è il ristorante a 5 stelle, ovviamente, una mensa più che dignitosa e più che saporita. Sediamo i bambini al tavolo, ogni bambino sa già che deve fare un po' attenzione al proprio appetito, per cui deve chiedersi se ha molta fame o se non ne ha tantissima, se quello che c'è a tavola gli piace moltissimo oppure no. Noi arriviamo lì, gli diamo o porzione intera o mezza porzione, quindi non facciamo neanche arrivare lo scarto sul tavolo. Se tu vuoi mezza porzione, ti do mezza porzione, non ti faccio buttare via la mezza porzione. E se poi cambi idea, puoi chiedere un rabbocco? Puoi chiedere assolutamente il bis, c'è anche quello che perfetto. Vuole l'assaggino, bello, un maccherone e poi dice buono, mangio tutto. Che è vero, è una cosa tipica dei bambini, è una cosa tipica dei bambini che spesso ci mettono un po' a capire se una cosa gli va o non gli va, magari il piatto pieno è anche un po' li spaventa. Oppure li indurrebbe a dire no, il mio compagno non lo mangia, lo butto via anch'io. Ma questa cosa vi porta via molto tempo o riuscite ormai a farlo con una macchina ormai oleata perfetta? Rapidissimi. Arriviamo giù, sanno già, tanto tutti sanno già che cosa si mangia perché il menù è noto. Sì, è scritto quando si entra. Settimane per prima. Io gli porto rapidissimo un piatto ogni due, cioè quelli che vogliono soltanto la metà, io gli do un piatto vuoto. E se lo dividono. Quando arriva il piatto pieno, loro fanno a metà, cioè i due si smezzano il piatto. Ah, se lo smezzano loro, quindi imparano anche la matematica, secondo me. Esattamente. Perché se sono maccheroni molto buoni si contano. Hanno anche imparato la statistica quest'anno, sono in quarta, per cui si danno un pochino più da fare. Abbiamo registrato quotidianamente il consumo esatto di porzioni e mezze porzioni, sì. Per cui noi abbiamo fatto anche la media e sappiamo che in media la nostra classe, quando si sedono in 24, ritirano 18 porzioni. E qui abbiamo avuto l'aiuto eccezionale da parte dell'amministrazione e del servizio mens del comune e anche quelle della cooperativa, che ci hanno rivelato quanto risparmiamo. Abbiamo fatto due conti, potremmo avere un risparmio di 1.800 euro all'anno di risorse risparmiate per ogni classe. Quindi investire in altre cose o da far risparmiare anche alle famiglie. Say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love, can buy me love. Everybody tells me so, can buy me love. No. Say you don't need a ricordo che tutte le nostre scelte musicali le ritrovate sulla pagina di Si può fare sul sito di Radio 24, c'è la playlist di ogni puntata. Can't Buy Me Love, naturalmente, dei Beatles. Siamo a Romentino, una piccola cittadina da cui arriva una notizia che ci è molto piaciuta, un vero e proprio Si può fare. Arriva anche qua il resto sospeso, tutte le attività commerciali del paese hanno aderito, con i soldi raccolti da questi resti sospesi si aiuta chi è in difficoltà a fare la spesa. Che bella iniziativa, sindaco Alessio Biondo, buongiorno. Buongiorno. E siamo in provincia di Novara. Vicino alla terra quasi di Umberto Eco. Sì, vicino. Non vicinissimi, ma insomma, in Piemonte. Insomma, abbastanza vicini. Una bella iniziativa che coinvolge tutto il paese, ed è questa la cosa bella e positiva, che siamo riusciti a coinvolgere tutti gli esercizi commerciali presenti sul territorio. Meno uno, è vero? Ma no, questo meno uno va bene, allora ho letto l'informazione sbagliata, diceva tutti i negozi, abbiamo ricevuto un unico no da parte di un commerciante che ha già attivato altre operazioni benefiche, aggiunge l'assessore. però ma, no, può essere, ma non, non importa. Vabbè, no, sindaco, una defezione ci mancherebbe, ci mancherebbe. Anzi, è quasi più bello piuttosto che tutti che sembra quasi di essere stati precettati, invece evidentemente hanno tutti veramente aderito a questa iniziativa. L'iniziativa consiste sostanzialmente nel prendere spunto dal famoso caffè sospeso di Napoli, sì, e chiedere ai commercianti di informare i clienti. Ci sono dei bussolotti in cui si può lasciare il resto, anche pochi centesimi, non è che pretendiamo chissà che cosa, e alla fine periodicamente verrà fatta una raccolta di questo resto, che viene poi trasformato in prodotti, e periodicamente questi prodotti verranno ridistribuiti alle persone. Perché, sindaco Biondo, ricordiamo che il caffè sospeso a Napoli funziona così: uno paga un caffè, ne paga una, paga il proprio caffè, ne paga un altro, in modo che chi entra nel bar e non ha soldi, non ha denaro sufficiente, può bersi un caffè pagato da un altro. Invece nel vostro caso il resto sospeso sono proprio delle monetine che si lasciano, a volte i bar lo fanno, di raccogliere dei piccoli spiccioli a fini benefici o anche semplicemente come mancia per i baristi. Qua però è una cosa diversa, organizzata, in cui tutto il comune partecipa, per dare questo aiuto alle persone che sono in difficoltà, una piccola monetina. Chi è che gestirà poi queste, dal punto di vista proprio pratico, queste... Sì, c'è una filiera che parte dalla Commissione Politiche e Sociali del Comune, che ha individuato nella Caritas locale il soggetto per poi con cui collaborare per la gestione dell'iniziativa, perché un altro insomma, lo spirito chiaramente non è quello di cercare di raccogliere più soldi possibili, ma è quello di mandare un segnale in cui si dice che insomma una comunità è una comunità vera quando ci si dà una mano uno con l'altro. E quindi abbiamo cercato di coinvolgere non solo i commercianti, ma anche le associazioni che sul territorio da anni si occupano di creare questo spirito di comunità, dando una mano, aiutando chi è in difficoltà. E quindi insomma la Caritas era il soggetto, diciamo, ideale per poi occuparsi. Bene. Ma mi scusi, voglio capire se ho capito bene come funziona, perché io lascio dei soldi sospesi in un negozio di alimentari, poi in realtà tutti i soldi che vengono raccolti in quel negozio di alimentari si comprano degli alimenti in quel negozio, in giusto? Quel negozio, sì, perché esatto. La grossa differenza è questa, se no sarebbe semplicemente, sì, la più classica delle collette, uno dice lasciate dei soldi, quello che appunto diceva prima Alessio, nei bar c'è scritto per i poveri e non sai mai se sono gli indigenti o i poveri dipendenti che non vengono pagati in un altro modo. Invece in questo caso è molto più preciso il vostro, è che infatti io mi chiedevo, è un modo anche per aiutare forse i negozianti, esatto, e anche per coinvolgere i negozianti, che sì, a loro volta sono anche più interessati a dire lasci qualche cosa. Mi chiedevo però, perché deve essere un sistema molto complicato, perché poi cosa succede? Ci saranno 4,70 euro che sono stati lasciati da un parrucchiere, ci sono 2,20 euro lasciati in una merceria, oppure sbaglio? La domanda è difficile, ma abbiamo un minuto, sindaco. Rispondere. No, in realtà è proprio così, e chiaramente questi verranno convertiti a seconda del tipo di negozio. È chiaro che magari il parrucchiere li convertirà lui stesso in un taglio gratis. 4,70 euro ti taglia una ciocca praticamente. No, oppure no, semplicemente li convertirà in prodotti alimentari se ritiene. Insomma, il concetto in realtà è quello di insomma facciamo sentire che viviamo in un paese in cui c'è della solidarietà, c'è dell'attenzione. È chiarissimo, io faccio i complimenti, perché bravo, secondo me, sindaco, anche il sistema che avete inventato fa comunità, e questo mi sembra molto bello anche per quello. Grazie mille al sindaco di Romentino. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, technology. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, crack it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, rain it, pay it, watch it. it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stuck on at it. Allora, sbarca anche in Italia una app che si chiama Two Houses, che viene dal Belgio, credo, e a portarla in Italia è Giuditta Pasotto. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Giuditta. E lei, tra l'altro, è ideatrice anche di un social network che si chiama Jangle. Ho pronunciato bene? Giustissimo. Mm-hmm. E partiamo dal social network. Un social network per genitori separati? Esatto. Mm-hmm. Perché, diciamo... La cosa, io sono separata e la cosa che più mi l'avevamo sospettato, vero? Un'idea. E quando mi sono ritrovata da sola con due bambini, le cose più che mi hanno colpito sono il fatto che le amicizie, bene o male, o erano coppie sposate, quindi amici della coppia, o hai amici single, e tu ti ritrovi un po' ibrida, quindi non puoi uscire con i single. Perché beh, adesso sono tanti, nessuno. Però i genitori separati siete in tanti. Adesso c'è un bel boom, devo dire, va di moda parecchio. Però comunque sia, non è detto che tu abbia nelle tue cerchie di amicizie qualcuno nella tua stessa condizione. E quindi questo, un po' per me genitore e un po' per i bambini, sì, ti crea un po' dei disagi, diciamo. Allora, quindi... Ma perché? Perché i separati è bene che frequentino altri separati? Senti, in realtà ni, nel senso però... Per risposarsi? No. Però per te che sei separato, ti faccio un esempio del Capodanno appena passato. Io il primo Capodanno che ho fatto con i miei bambini erano tutte coppie con e io bambini. Ero l'unica... Sì. Sì, certo, con bambini, cioè, ero l'unica single. Confermo, a me è capitato questo Capodanno, eravamo tutte coppie con bambini. Era lo stesso Capodanno, quindi? Sì. Esatto, probabilmente. No, e quindi io mi sono sentita molto a disagio. È un problema di te, cioè di te separato, non per gli altri. Agli altri non dà mica fastidio, ovviamente, se te vieni da solo. Il problema è che magari mentre tutti, amore mi prendi quello, amore mi passi quell'altro, sei comunque, cioè ti viene sbattuto in faccia, ma sì, ti ripeto, è un problema nostro, il tuo fallimento. Poi, soprattutto all'inizio, ti cambia tanto la vita, perché sei abituato a fare le cose in due, ti ritrovi a farle da solo. Però scusami, comunque, a volte non è invece una vittoria, perché vedi magari altre coppie che stanno malissimo e tu dici io mi sono, certo, mi sono salvato da tutto ciò. Ma infatti dall'altro lato c'è il gran coraggio di affrontare questa cosa, perché ce ne sono tantissime, come dici te, di coppie che invece sopportano. Io ho amici che con i figli diciottenni fanno no, ma noi lo facciamo per i bambini, ma anche basta. No, ma soprattutto, cioè, io non vorrei in realtà che i separati uscissero con i separati e gli sposati con gli sposati, anche perché nell'altro senso secondo me è importante che anche gli sposati dicono vedi, lei è separata e magari a qualche donna che non ha il coraggio di separarsi ma che farebbe bene a separarsi stai dando l'idea, e quindi in realtà è il marito che dice no, non vedere quella cosa lì, e invece forse sì, è utile, insomma è più utile che ci mischiamo, questo volevo lo dire, so. Però diciamo, la funzionalità del sito mio non è meramente solo per le uscite e il divertimento, ma proprio di supporto. Certo, come funziona questo Jangle intanto? Allora, il sito è completamente gratuito, ovviamente. Sì. È presente in tutta Italia. Il sito si autocrea, ovviamente, sì, via via che si iscrivono le persone. E ti iscrivi, inserisci i tuoi dati all'interno del sito, dopodiché mettevi online un'inserzione per un tuo bisogno, per esempio ho bisogno di qualcuno per i bambini, però in scambio a favore, quindi un altro Jangle che magari si offre di tenermi i bambini, in cambio, non so, gli faccio le torte o cose del genere. Una sorta di banca del tempo. Bravissimo, quasi, tra genitori. Ma scusami, ma Jangle è la crasi fra genitore e single? Bravissimo, esatto. Ah, adesso l'ho capito, scusami. Infatti per quello ringraziamo per la pronuncia esatta, perché viene pronunciato in diversi modi, però il gle finale è proprio la fine di single, quindi certo, Jangle. Ogni tanto la secco anch'io una pronuncia inglese, che faccio la mia battaglia per parlare sempre usando l'italiano, però insomma. Anno, per esempio, qual è un bisogno che può avere soltanto un genitore separato e non un genitore normale? Fammi senti, un esempio. Ti faccio un esempio che è successo qualche tempo fa. Una mamma si è ammalata, ha avuto la bronchite, ma forte, forte, forte, e lei ha i parenti tutti al sud, ci siamo mossi tutti all'unisono per mantenere ai due figli lo stesso, diciamo, regime di vita, quindi lo sport, poter uscire e fare le cose. Già, è vero, perché quando sei in due, se uno sta male entra in azione, esatto, l'altro. Quando se sei da solo diventano problemi. E esatto, veniamo alla app Two Houses. Sì. Allora, quest'app è una genialata, secondo me, perché io per esempio ho un ottimo rapporto col mio ex compagno. Sì. Però ci comunichiamo le cose spesso al cambio dei bambini, un po' veloci, sai, tipo... Allora ricordati che dopo c'è la recita, fai conto. Già, tutte queste informazioni concrete, pratiche, che servono. E come quale si annuisce sempre e invece poi non si sa nulla. Come l'hai definito? Il cambio dei bambini, quando ve li passate? Come? Lo hai definito il cambio dei bambini? No, mi faceva incuriosiva questa espressione. È quando vi passate allora, i bambini? Il cambio, sì, tipo ostaggio. E quindi tutte queste informazioni che ci sono al cambio dei bambini, sì? Esatto, questa diciamo è proprio la base, sì. Però per esempio i miei figli, ora Guglielmo ha cambiato sport, quello più grande, fa calcio e quindi ha cambiato i giorni perché prima faceva tennis e non so perché ogni settimana vi sentite il dubbio, ma quali erano i giorni del calcio? Il martedì e il giovedì o il mercoledì e il venerdì? Bravissimo, lunedì e giovedì. Allora uno lo scrive sulla app, così tutti e due i genitori lo sanno. Ma infatti io la trovo bellissima questa app, perché tra le funzioni ho visto che per esempio appunto uno può infilare dentro sia, non so, le informazioni mediche, sia il numero di telefono dell'allenatore di calcio, perché mi immagino un padre che deve accompagnare il figlio e dice aspetta, bisogna chiamarlo, e chi ce l'ha il numero dell'allenatore del secondo figlio? Anche lì è nato perché spesso il mio ex mi chiamava dicendomi, ah, ti ho chiamato 10 volte e non mi rispondevi, mi serviva il numero dell'allenatore, fai conto, no? Certo. Ma, magari era in riunione o qualcosa del genere, e poi di lì nasceva una discussione, perché poi il problema da separati è che uno sta sulla difensiva. E certo, se no non ci si separava, si separava. Esatto. E quindi cioè, la comodità di avere tutti i contatti condivisi, quindi il numero della rappresentante di classe, l'allenatore. Ma scusa, mi togli una curiosità, Giuditta, ma anche i figli, se grandi, possono accedere all'app? O è solo... Esattamente. Ah, anche sì, loro? Sì. Provando a scrivere, magari, sabato sera non ci sono, esco. Ah. Sotto i commenti. Oppure scrivendo, rimettetevi insieme che mi sono rotto. Esatto, non lo so. Però noi non abbiamo più tempo per descrivere la lab, perché i nostri minuti invece sono finiti a disposizione. Allora Giuditta, grazie comunque per essere stata con noi. Grazie, complimenti. Ed è tutto per la puntata di oggi. Grazie per averci seguito. Se volete commentare le storie che avete sentito, ci trovate su Facebook, si può fare @radio24. Potete anche scriverci, si può fare @radio24.it. Grazie a tutti, ci sentiamo domani, domenica alle 8:30, puntata di Pasqua. Ciao a tutti da Alessio Maurizio.